prefetto, sindaco. È uno strano modo di fare, di andare avanti in questa maniera, ma certamente ci rimettono tutte le istituzioni. E questa è una valutazione che lascio poi agli ascoltatori. Per quanto riguarda nel merito, non c'è nessun atto del Comune, come Comune di Milano, scritto, in cui si dice che il Comune di Milano assegna delle case popolari ai Rom. Tant'è che i giudici hanno parlato di dichiarazioni, non di atti, e anche questo è abbastanza un po' sintomatico della stranezza decisione che io ho definito politica, perché quando un magistrato si basa su dichiarazioni e non su atti, allora è evidente che c'è qualche valutazione di ordine che non è più strettamente giuridica, però forse ma che di ordine politico. Questi Rom hanno lasciato il campo forse pensando in una casa, insomma, forse basandosi su queste dichiarazioni. Io mi attengo agli atti, poi i Rom possono pensare che gli davamo anche il paradiso, ma ognuno può pensare quello che vuole. Gli atti, i giudici non sono i Rom, i giudici devono attenersi agli atti scritti. E gli atti non ce ne sono. Il Rom può anche pensare nella sua mente, nella sua fantasia, che il Comune gli stia dando delle case, ma il giudice non lo può pensare perché deve esaminare gli atti. E gli atti, non ce ne sono. È una sentenza di un giudice monocratico, e ovviamente io credo che probabilmente intanto il ricorso verrà fatto a un organo, se verrà fatto, ma io credo che sono convinto che dovrà essere fatto, perché almeno sarà un collegio a giudicare. Non il giudice monocratico. Però le chiedo, almeno andiamo con tre persone che ci giudicano. Sì. Le chiedo, vice sindaco, le chiedo questo però. Oggi non la c'è Lega... un atto, non no, c'è questo... una delibera. Questo l'ha già chiarito, non c'è un atto ufficiale del Comune. La Lega oggi protesterà davanti a Palazzo di Giustizia, secondo lei fanno bene? La Lega fa quello che ritiene, certamente questo atto da parte della magistratura milanese non va nella direzione di un rapporto proficuo tra istituzioni. Quando si smentisce il ministro degli interni, il prefetto, il sindaco, insomma, bisogna anche essere attento, e soprattutto quando si fa riferimento alle cosiddette schede abitative firmate dai Rom, dall'altra parte c'era la Casa della Carità di Don Ingenio Commegna, non c'era il Comune di Milano. Sì, certo. Quindi, insomma, anche qui un giudice, non lo so, come fa a contestare carattere discriminatorio a un'istituzione che ha la libertà di dover decidere in base a esigenze che sono quelle dell'amministratore, diverse probabilmente da quello del giudice. No, queste quando sono si esaminano gli atti bisogna esaminare nero su bianco. Senta, vice sindaco, nel salutarla e nel ringraziarla, ma la vicenda Rom a Milano, come in tante altre grandi città, perché è così sempre una fonte di problematiche? Perché Milano è la città più ricca d'Italia, e perché i Rom pensano a Milano di poter trovare facile preda quando c'è un insediamento Rom. Io vorrei che lei venisse nel mio ufficio. Appena si insediano 4 o 5 roulotte di Rom in una via di Milano, immediatamente i box, le case vengono letteralmente ripulite, e i cittadini protestano, telefonano, appena si insedia, li mandiamo via e non succede più nulla. Però, vice sindaco, questo vuol dire Rom uguale... vuol dire Rom uguale ladro, questo. Questo vuol dire che ogni volta, io questo registro, io sto dicendo, quando si insediano 2 o 3 roulotte, Tribognano è un insediamento regolare, ma quando si insediano in aree abusive o in strada delle roulotte nomadi, io ricevo fax, email, lettere, proteste, telefonate, consigli di zona che mi chiamano, consiglieri comunali che mi chiedono di far sgomberare quella realtà. Questo sì, quindi se io dico, Rom uguale ladro, lei sottoscrive oppure no? Io dico che io davanti a me ho queste lettere, poi giudichi lei, giudicano i milanesi, io non faccio nessuna equazione. Va bene. L'equazione la sta facendo lei, io sto dicendo quello che mi segnalano. Io sono un osservatore e sono anche uno che deve assicurare anche la sicurezza, la mia delega alla sicurezza. Quindi per me è prioritaria, a tante altre questioni, è la sicurezza. E lei registra questo? Io ricevo queste continue segnalazioni quando si insedia. La ringrazio, vice sindaco, devo fermarmi. Grazie, ovviamente, buona giornata e ancora solidarietà per quell'aggressione che ha grazie subito. Grazie ancora. Vice sindaco di Milano, Riccardo Decorato, grazie per essere stato con noi, anche onorevole del PDL. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi parliamo delle manifestazioni di piazza. Arresti preventivi? Che ne pensate? 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua. Parliamo della manifestazione di domani, attesa di molti studenti, in concomitanza con la discussione del decreto del Gelmini, la riforma universitaria e della proposta, insomma, degli arresti preventivi per evitare le violenze in piazza. Quello che vi chiediamo ai nostri ascoltatori, una soluzione secondo voi giusta nel nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Prevalgono per ora i no con il 62%, ma votate su radio24.it se volete intervenire invece. 800 24 00 24. Intanto voglio chiedere a Fiorenza Sarzanini, che è giornalista del Corriere della Sera, che si occupa di queste tematiche, non solo, sempre molto attenta. Fiorenza, buongiorno intanto. Buongiorno a voi. Come ci si prepara? Perché oggi leggeva anche sul Sole 24 Ore, discussioni e dialogo sì, ma duri con gli eventuali duri, o meglio reazione dura se qualcuno prova a sgarrare. Questo è il clima per domani? Ma sì, questo è il clima, soprattutto perché l'altra volta il dispositivo che era stato ipotizzato dalla questura e poi messo in pratica ha dimostrato che a un certo punto le forze dell'ordine si sono perse in qualche modo i gruppi più violenti e quindi hanno dovuto subirne l'attacco, come è avvenuto in Piazza del Popolo, quando poi a un certo punto hanno incendiato i mezzi, hanno cominciato a bersagliare i poliziotti lanciando di tutto, soprattutto sassi, bastoni, e a quel punto era difficile andare addosso. Quindi diciamo che in questo caso ci sarà meno blindati, più uomini, più contingenti, diciamo, sulla piazza, proprio per cercare di prevenire queste azioni estemporanee e appunto più gravi, più violente, perché poi i piccoli gruppi si muovono con agilità, i manifestanti, e quindi vanno a sfasciare. Cioè, l'immagine del ragazzo che prende a picconate il bancomat probabilmente durerà pochi secondi, certo, perché poi dovrà essere fermato. Perché questa volta si interverrà nel caso dovesse, esatto, capitare, poi speriamo ovviamente non capiti. Ma il clima, a questo proposito, al di là degli arresti preventivi, oggi Gasparri dice non ho mai chiesto arresti preventivi, ma semmai di fare delle indagini, magari intervenire sui centri sociali, perché lì dove si annidano persone che vogliono andare a Roma da tutta Italia con un chiaro intento si può intervenire. Ecco, sotto questo profilo, anche questa criminalizzazione dei centri sociali. Vabbè, insomma, questa è un'idea di Gasparri, ma in ogni caso c'è uno studio, un'analisi di chi sta convergendo su Roma da parte del Viminale per cercare di intervenire prima? Magari ci sono dei centri sociali un po' più caldi degli altri, questo non possiamo nasconderci. Sì, però voglio dire, certo che ci sono dei centri sociali più caldi degli altri, ma bisognerebbe fare un rastrellamento allora, se questa è, perché voglio dire, arresto preventivo, anche nel 77 ci fu un'indagine, poi si decise di andare ad arrestare i capi di appunto alcuni movimenti. In questo caso certo che il Viminale e la Polizia di Prevenzione monitorano gli arrivi, cercano di capire chi parte, dove parte, come parte, quando arriva e chi diciamo incontra, per capire quali sono le azioni pianificate. Ma però non è che si può fare qualcosa prima se uno non fa niente, insomma, questo... perché voglio dire, ipotizzare anche una manifestazione violenta e poi bisogna metterla in pratica. Il problema è che gli arresti vanno fatti in piazza, invece, come ha dimostrato quanto avvenuto la scorsa settimana, ed è su questo che sarà cambiato completamente il dispositivo, poi alla fine i più violenti sono riusciti a sfuggire e le persone che sono state fermate e arrestate avevano dei reati così diciamo minimi, che a quel punto sono stati messi in libertà o comunque processo differito e poi lasciati per il momento in libertà. Intanto Fiorenza, rimani con noi, io voglio salutare due persone che saranno sicuramente in piazza domani, anche se io non voglio dire su fronti diversi, sennò si crea già un clima che non mi piace, ma in situazioni certamente diverse. Saluto Francesco Paolo Russo, che è il segretario provinciale di Roma del CONSAP, la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia. Buongiorno Russo e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, grazie per essere. una persona che sicuramente ha cognizione di causa per quel che riguarda le manifestazioni di piazza. E saluto Francesco Caruso, lo ritroviamo, l'abbiamo chiamato anche settimana scorsa. Francesco Caruso, buongiorno. Buongiorno. Senta, Francesco Paolo Russo, domani sarete in piazza. Intanto ci può dire qualcosa della sua attività, nel senso come mai in piazza, che esperienze ha di manifestazioni di piazza? Era in piazza il 14. Un'attività, a prescindere da quella di sindacalista, un'attività porta più alle indagini, perché sono un operatore del servizio centrale operativo, quindi io faccio quelle che sono le indagini prima della manifestazione. Ma in questo caso ci terrei, andiamo a cominciare il mio intervento con una cosa. Prima cosa, di tenere i toni bassissimi, perché io ho fatto un giro in questi giorni per l'università e tutto questo, diciamo, facinorismo, non so come chiamarlo, non lo vedo in giro, nel senso che vedo ragazzi che comunque sì, hanno tutto il diritto di manifestare la loro opinione, e soprattutto di farla con i modi e con i termini giusti per poter portare avanti una giusta causa, perché noi, a proposito di tagli, insieme a loro siamo stati anche come comparto sicurezza funestati negli ultimi 4 anni in modo bipartisan, sia dal governo Prodi che dal governo Berlusconi, 1,5 miliardi il primo e 1,650 miliardi il secondo. Quindi sappiamo cosa significa provare sulla propria pelle questa tipologia di impatto del governo. Quindi è chiaro che per quanto ci riguarda abbiamo nei loro riguardi un rispetto altissimo, finché i toni rimangono bassi e finché il rispetto rimane reciproco. Per questo io ci tengo. Poi, per quanto riguarda il sondaggio che avete lanciato, prima vi seguivo, riguardo agli arresti preventivi piuttosto che il DASPO, io chiederei ai governanti di fare i governanti. Per queste cose c'è il responsabile dell'ordine di sicurezza pubblica, che è il signor questore di Roma, nella fattispecie, o il capo della polizia. E sicuramente in piazza troverete del personale preparato, che la scorsa volta, correggo anche la giornalista che prima è intervenuta, ha fatto degli arresti mirati, pochi ma mirati. Quindi dopo tre ore. Però lei dice mirati, poi c'è stata la polemica, perché dopo 2 giorni sono rimasti, sono tutti a casa. È una polemica, secondo lei? Noi siamo il braccio, poi c'è la mente, che è la magistratura che provvede ad infliggere o meno condanne o pene che nelle quali io non entro. Io però sono sicuro di questo che vi dico, e ho la certezza che sono stati arresti mirati, non c'è stata nessuna retata, tant'è che sono tutti ragazzini, perché chiaramente effettivamente le menti di questo se ne guardano bene di andare in prima linea. Le chiedo, c'è effettivamente, lei dice giustamente abbassare i toni, anche il capo dello Stato ha detto abbassiamo i toni per quel che riguarda la manifestazione di domani, però il timore che ci siano, come l'altra volta, degli, diciamo, infiltrati, cioè persone che vanno non per manifestare pacificamente ma per fare altro, c'è sicuramente, no? È chiaro, quello c'è sempre. Poi Roma è un teatro mondiale, quindi diciamo noi non sottovalutiamo neanche gli emulatori, no? Perché molti di questi bambini che erano stati fermati, perché 14, 15 anni, 16 anni sono bambini, io le da loro già dopo con Ken e piuttosto che con altre cose, anziché andare in piazza. Però è chiaro che le persone che tra virgolette li mettono in condizione di trovarsi davanti alle forze dell'ordine a non capire che quello è il bene. Perché noi, come ha detto il capo della polizia, in quel momento facciamo quasi da filtro per il governo, perché ho letto anche oggi, non mi ricordo se era sull'Unità di Rassegna Stampa, hanno detto che diceva che non si trovano più a dialogare col governo, ma si trovano a dialogare con la polizia, che in quel momento fa da sostituto del governo. Questo sta succedendo, qualsiasi governo esso sia, di centrodestra o di centrosinistra, il poliziotto, che di pasoliniana memoria è più operaio dell'operaio, anche a livello di... Cioè, in quel momento rappresenta il bene. Io a mio figlio sto insegnando questo. Lo so, ma magari non è quello che insegnano tutti i genitori e figli. Non so, Francesco Caruso, lei la vede così? Cioè, le forze dell'ordine in quel momento sono la tutela del bene, sono il bene? Caruso? Non ci sente. Caruso, dove è scomparso? Si è dato, Caruso. So, sentiamo il primo ascoltatore che ci... Adesso recuperiamo Francesco Caruso. Andrea da Pisa, buongiorno. Buongiorno. Lei che dice? Farebbe degli arresti preventivi o interverrebbe prima? A quello che ho sempre saputo da quando ho iniziato un attimino la città della regione, la prevenzione è quella che viene attuata da tutta la polizia per perché non si arrivi al fare di al punto di commettere dei crimini. Beh, oddio, in che mondo vive lei, scusi? Ha visto Minority Report? La prevenzione sulla strada per fare i controlli. Ora, che non si possa fare una prevenzione documentata, anche perché ci sono dei filmati che lo attestano, su quello che è successo, su quei personaggi che di solito la effettuano, mi sembra una cosa. Si dovrebbe fare assurda. Prevenzione. Va bene, intanto abbiamo recuperato Caruso, eccoci qua. Caruso, sì. Le chiedo, è il bene, ci dice Francesco Paolo Russo, dice noi rappresentiamo il bene in quel momento, perché i giovani che sono in piazza non lo capiscono, o dovrebbero capirlo. Beh, io lo spero e mi sento di rivolgere un appello a questo punto alla disobbedienza, alla parte sana delle forze dell'ordine, perché appunto se sono le forze del bene si dovrebbero rifiutare di manganellare questi giovani per proteggere quella pleteora di corrotti affaristi che siedono in Parlamento. Anche perché se gli studenti entrano al Senato per cacciarli a calci nel sedere, credo che sarebbe un ottimo servizio per la democrazia nel nostro paese. Beh, adesso Caruso, cioè dovremmo entrare e prendere a calci i senatori. Questo. Per usare il linguaggio che usano rappresentanti di quel che siedono al governo, quindi io spero che non si appelli a pretendere il senso di responsabilità ai manifestanti. Cioè lei si auspica, insomma, sarebbe un bene entrare a prendere a calci i senatori e i dovrebbero fare disobbedienza la polizia e far passare questo, che farebbero un bel servizio. Un bel servizio. Al di là delle provocazioni, sicuramente ha ragione quando dice che i governanti dovrebbero fare i governanti, ma questi, essendo incapaci per volontà o per negligenza di dare risposte politiche alle istanze sociali dei movimenti, delegano alle forze di polizia, alle politiche repressive, una funzione suppletiva, e quindi si crea questo cortocircuito per cui i movimenti non hanno un'interlocuzione politica, ma restano nudi di fronte alla violenza e in un certo senso anche istigati alla violenza da un premier che in uno slancio di sincerità ieri affermava di non capire le ragioni della protesta, oggi loro portavano vari giornali. È certo che per quest'ultra settantenne che regala 10.000 euro a ogni minorenne che incontra dopo cena, il dramma della precarietà gli deve apparire come uno slogan propagandistico, non certo il destino di milioni di giovani italiani. Allora Caruso, si fermi un attimo, devo dare l'informazione sul traffico, la vedo oggi molto spumeggiante e in forma in termini di dichiarazione, insomma, questo è sul fatto della disobbedienza a cui chiama alcuni della polizia. Vorrei ritornare dopo il traffico da Francesco Paolo Russo tra un attimo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 57% ancora dice no agli arresti preventivi, allora vorrei da Fiorenza Sarzanini, ma prima da Francesco Paolo Russo. Ha sentito Caruso, no, giusto i toni. Caruso, che è stato parlamentare, tra l'altro, ricordiamolo. Facciano disobbedienza civile i poliziotti nei confronti del governo, invece che manganellare quelli che vogliono andare a prendere a calci al Senato i senatori. Io ricordo al mio omonimo Francesco che le forze dell'ordine in tutto hanno fatto un giuramento a qualsiasi governo, e da qualsiasi governo provengano ordini, volenti o nolenti, bisogna obbedire. Gli unici che secondo me hanno disobbedito martedì scorso e che secondo me disobbediranno domani sono quei bambini che, anziché andare a scuola come promettono ai genitori, andranno giustamente a manifestare, quindi io per loro sono autorizzato a disobbedire. Per quanto ci riguarda è una provocazione che non raccolgo, perché chiaramente fatta da lui, che comunque è stato anche un componente del governo, mi fa sorridere. Del governo, sì, del Parlamento. Del Parlamento, sì. Effettivamente questa l'ha detta un po' grossa, insomma i toni qua dobbiamo abbassarli, però lei, insomma, come dire, perché questa... Io l'unica aggressione che ho visto documentata, tra l'altro la vedo anche nelle foto, lei che tiene questo povero ragazzo che si è preso un casco in testa, rischiato veramente la vita, sì, è stata tra manifestanti, quella vera. Esatto, questo è l'altro paradosso della non violenza. Quando si parlava anche ai tempi di Genova di militarizzare i cortei con i servizi d'ordine, questo è stato tutto estemporaneo, un gesto autoproclamatosi tutore dell'ordine. Si è visto che appunto la mancanza di professionalità lo stava portando ad uccidere un ragazzo per per fare quello di cui nessuno gli aveva incaricato di fare, cioè mantenere l'ordine. Ma perché, perché lei dice così addirittura, no, fate disobbedienza civile, poliziotti, cioè capisce che insomma non è un bel messaggio? No, capisco che possa sembrare paradossale, però io mi sento di... Spero appunto che sono convinto che questa rivolta generazionale, questo movimento che si è messo in moto è l'unico antidoto contro il degrado politico e culturale in cui riversa il nostro paese, e che solo appunto attraverso questo moto di ribellione generalizzata possiamo archiviare la Repubblica di Scilipoti e di Bunga Bunga. Però scusi Caruso, la ribellione è quale? Quella che va in piazza o quella che aggredisce un finanziere abbastonato? Assolutamente, perché, insomma, bruciare un'auto, prendersela col poliziotto serve a poco, anzi a volte anche autolesionismo. No, più che serve a poco è un crimine, no? È un reato. No, cioè. Che si rivolta spesso anche contro coloro i quali appunto lo fanno, e quindi per questo dico autolesionista. È evidente che la rabbia da solo non basta e che anzi c'è bisogno che questa si alimenti con il sapere e la coscienza, altrimenti resta appunto una fiammata facilmente. Cioè io non la sento dire, cioè lei non dice bruciare una camionetta della polizia o assaltare un finanziere è un crimine, è un reato. Cioè... Quello lo dice il codice penale. Non ho capito, lei non lo dice. Non sono un magistrato, per cui... Non sono il giudice tutelato a decidere. Lei non lo vuol dire. Ricercatore universitario oggi Caruso. Fiorenza Sarzanini, questo è il clima, ma per carità, Caruso lo conosciamo, è così. Ti chiedo intanto, Gasparri, che ha detto queste parole, il Viminale è vero che la considera una provocazione? Cioè perché Gasparri tra l'altro ha insistito, non mandate i figli in piazza, ci sono potenziali assassini? Ma diciamo che dal centrodestra c'è un rincorrere a una, appunto, una svolta autoritaria che può fare solo male, quindi quando si dice Viminale si intende soprattutto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza che poi manda in piazza i poliziotti, e quindi è chiaro che questa la interpreta come una provocazione che a due giorni dalla manifestazione serve appunto ad eccitare gli animi e a iniziare la piazza. Io vorrei ricordare a Caruso che dopo Genova proprio quelle devastazioni fecero finire il movimento delle tute bianche, di tutti quelli che invece, come sta succedendo adesso, avevano nelle intenzioni la volontà di manifestare pacificamente e giustamente contro il governo. Vorrei ricordare come l'onda studentesca ebbe molto consenso proprio perché manifestava pacificamente, quindi invece di incitare i ragazzi a sfondare le porte del Senato, forse sarebbe il caso di incitarli a manifestare sempre più in numero sempre maggiore, ma sempre più pacificamente per trovare consenso e non per aizzare una polemica che può far male solo a questi movimenti di protesta che rimangono movimenti di protesta giusti e ripeto che possono trovare massimo consenso proprio quando sono pacifici. Allora io vorrei sentire Norberto da Lecco, buongiorno, che ne pensa Norberto? Buongiorno. Dica. Ma io avevo fatto una provocazione. Dica. Sì. Sì, sì. Io dicevo, e se restassimo Gasparri prima che dice sciocchezze? Vabbè, dai, insomma. No, la provocazione. Andiamo al di là della provocazione. E difatti, andiamo al di là della provocazione. E lei la conosce perfettamente la riforma Gelmini? No, infatti questo è il problema. Oscar Giannino ci ha dedicato varie puntate. Questo è un dramma che si discute, lei fa bene a dirlo, si discute della questione di ordine pubblico per manifestare contro una riforma che nessuno conosce, o meglio se non gli addetti ai lavori, eccetera, che sono sicuro... Il 70, 80, 90% della gente che domani manifesterà, non lo so, forse ho esagerato, magari non la conosce nei dettagli, magari sotto sotto un pochino la considera anche positiva sotto alcuni aspetti o criticabile sotto altri, ma questa è un'altra discussione. Però lei fa bene a dirlo, si discute, è diventata un impazzimento di ordine pubblico per discutere di una cosa, per manifestare contro una cosa che la maggior parte delle persone non conoscono. Io vorrei in questi 30 secondi concludere con Francesco Paolo Russo, mi dice un celerino, come vengono definiti, quanto guadagna in media uno di quelli che sta in piazza? Tra i 1.300 e i 1.400 euro al mese. È una giornata in piazza che inizia alle 6:30 e finisce mediamente, diciamo a fine turno, quindi può finire alle 20, come alle 24, 17 euro lorde. 17 euro lorde, cioè come straordinario, diciamo così, 17 euro. No, non come straordinario, come indennità di ordine pubblico. Come indennità di ordine pubblico. Le dico che se c'è un secondo, parlavo proprio martedì con dei miei iscritti, colleghi del reparto mobile a Piazza Colonna, guardavano la gigantografia di Sakinè e dicevano: nessuno meglio di noi può capire la lapidazione. E lascio a Francesco Caruso a Francesco Caruso non facciamo commentare questa, se no succede un pandemonio. Vi ringrazio, poi il tempo è finito. Ringrazio Francesco Caruso. Francesco Paolo Russo, segretario provinciale della CONSAP a Roma, la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, e Fiorenza Sarzanini e Sarzanini, inviata del Corriere della Sera, per essere state con noi. Domani dunque la manifestazione, ovviamente domani la riforma Gelmini, seguiremo tutto. Che dire, tanto noi domani ci siamo con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia, alle 7:20. Potete anche scriverci 24mattino@radio24.it. La linea appunto a Oscar Giannino. A domani.